Kabul. Le case e gli alberi di Kabul si intravedevano all'orizzonte. Trovandoci finalmente su un buon tratto di strada, la nostra macchina procedeva regolare e silenziosa, scivolando con distacco e padronanza al pari di una nave che non si dà pensiero di quanto capiti sotto la chiglia. Dopo migliaia di chilometri su piste accidentate, il mio corpo finalmente rilassato poteva di nuovo rallegrarsi di essere cosciente di sé. Entrammo in Kabul e per un istante mi sentii trionfante. Che ingenuità! Proprio quando avrei dovuto stare allerta, la mia sorveglianza si allentò e incominciai a fantasticare sul futuro. Christine era ancora malata. Ci recammo perciò dal dottore dell'ambasciata britannica. Aveva la bronchite e le furono prescritti 10 giorni di letto. Vivendo all'ambasciata francese in un piccolo appartamento, gli Hakim non avevano posto per noi e con nostra grande gioia fummo così costrette ad accamparci nello studio di Marthe e di Gabriel, i miei amici parigini. E là, pur tossendo sempre, Cristina non seguì i consigli del medico. Spossata e depressa, sembrava annoiarsi, tranne quando andavamo a trovare gli Hakim. Non più sostenuta dalla necessità di realizzare il nostro piano, come era successo nei mesi precedenti, diventò capricciosa e indecisa. Non aveva nessuna fiducia nelle medicine ordinatele dal dottore. Mi pregò di comprarle nell'unica farmacia della città uno sciroppo a base di codeina. Non sapevo allora di che cosa si componesse tale sostanza e d'altronde occorreva calmare gli accessi di tosse che ci impedivano di dormire. Poi scoppiò la guerra nella lontana Europa. L'incertezza si impadronì delle nostre vite. Joseph e Gabriel si misero a disposizione dei loro rispettivi consolati. Agli stranieri non fu più permesso lasciare Kabul per l'interno del paese. Il mio Kafiristan era diventato irraggiungibile. Benché venuta a cadere la molla principale del nostro viaggio, lo spirito che lo aveva animato riviveva quando visitavamo la città. La tomba di Babur era una semplice stele di marmo in un giardino terrazzato. Da buon montanaro l'imperatore non aveva voluto essere sepolto in India, paese che a suo parere era sprovvisto di buoni cavalli, di buoni cani, così come di veri uomini. Capisco perfettamente il suo punto di vista. Ma mi domando se condividerò mai la fede espressa in queste parole. Se una spada strappasse la terra da dove essa è, non vi sarebbe vena tagliata che Dio non voglia. Queste righe furono scritte perché il futuro imperatore, mentre si batteva per la conquista di Kabul, fu colpito dalla spada di Dost Sirpuli senza riportarne nessuna ferita, fatto inspiegabile a tutti. Babur significa la tigre. Vicino a noi l'aria risuonava di voci infantili. Scoprimo infatti che nei pressi vi era una piscina frequentata da scolari sotto la sorveglianza di un maestro. Vedendoci, ci salutarono disciplinatamente, esclamando «Guten Tag!». Compresi il significato di quelle sillabe soltanto quando capii che là c'era la scuola tedesca. Alcuni anni dopo, molti di quei fanciulli avrebbero dovuto dare un triste addio ai loro cari insegnanti tedeschi, costretti a lasciare l'Afghanistan, i quali, sicuri di vincere la guerra, forse risposero «Non vi addolorate, in meno di 4 mesi saremo di ritorno». Visitammo la scuola femminile, sistemata in un'ala dell'ospedale per le donne. La sua esistenza non era stata ancora ufficializzata per riguardo ai mullah. Non ho mai visto tante bambine vivaci, stipate a centinaia in uno spazio così ristretto. Ogni aula conteneva il massimo possibile di allieve e ebbi l'impressione che un grande entusiasmo animasse le loro maestre afghane. Vi erano alcuni insegnanti maschi, ma vecchi come Matusalemme, per non creare scandalo se inavvertitamente fosse loro capitato di sfiorare qualche allieva passando tra i banchi. Di aspetto e abbigliamento diversi, le bambine erano per lo più tutte graziose. Negli occhi di molte di loro brillavano pagliuzze dorate. Lo sguardo con cui osservavano il mondo ne rivelava la franchezza, l'ardore e una sorta di sfida, uno sguardo comune a tutte che sembrava voler dire «È coraggioso ciò che facciamo in questa scuola, siamo fiere di rappresentare il nuovo Afghanistan». Quanto intensamente desideravo essere loro d'aiuto, come era viva la speranza che imparassero a pensare, a sentire e a vivere giustamente. Ne immaginavo le gravi difficoltà in una città dove ancora di recente l'istruzione consisteva soprattutto nell'apprendimento a memoria del Corano. Nel liceo francese, un ispettore scolastico, notando, pur senza conoscere il francese, una certa esitazione nelle risposte di alcuni allievi alle domande del maestro, aveva concluso che si trattava di ragazzi svogliati e poco preparati. È facile indovinare i sentimenti dell'insegnante che per anni si era certo sforzato di risvegliare la capacità di riflessione e di giudizio dei propri alunni. Per contro, i professori afghani di un altro liceo furono dichiarati i migliori di Kabul semplicemente perché i loro ragazzi avevano ricevuto voti eccellenti. L'Afghanistan si divideva tra antichi e moderni, i primi sostenuti dai mullah. Si opponevano a qualsiasi innovazione. In occasione di un'assemblea a cui parteciparono circa 1600 mullah, fu stilato un programma di 48 punti. Una delle richieste verteva sulla necessità di chiudere la scuola femminile, poiché un'istruzione moderna non poteva che causare confusione e turbamento nelle menti di giovani donne. Il governo rifiutò. Un altro punto che insisteva sulla soppressione delle sale cinematografiche, dove notai che gli uomini, poco abituati a sedersi sulle sedie, vi si sistemavano a gambe incrociate, anche se la posizione risultava alquanto scomoda. Non ebbe esito positivo, poiché si riteneva che i film avessero un valore educativo, offrendo l'occasione di conoscere il mondo a chi non aveva possibilità di viaggiare. Il governo è convinto che i mullah debbano essere convertiti alle nuove idee, così da poterli utilizzare come agenti di propaganda dell'attuale regime nei villaggi. Per il momento, infatti, essi soltanto sono in grado di fornire i quadri necessari per costruire un paese nuovo. In quanto ai moderni, che in maggioranza sono vissuti all'estero per un certo tempo, essi sono gli audaci rappresentanti del clan governativo. Il loro impegno è volto a rafforzare la nazione perché non debba subire una sorte simile a quella dell'Abissinia nel 1935 o della Corea nel 1950. 10 anni prima, quando Nadir Shah divenne re, non soltanto non esistevano né esercito né tesoro, ma le riforme troppo affrettate di Amanullah avevano reso la popolazione ostile a ogni cambiamento. Il miglior modo di far comprendere a Cristina il valore dei risultati raggiunti da questo esiguo gruppo di governanti moderni era di farle constatare di persona le reazioni della gente comune. Andammo dunque a far visita all'infermiera che dirigeva il sanatorio di Aliabad. Ammiravo molto quella donna che, venuta dalla Svizzera, viveva sola ad Aliabad, fuori Kabul, regnando sul suo mondo di uomini come un vecchio capitano, dirigendoli tutti, dall'assistente farmacista fino al cuoco e al lavandaio. Aveva imparato il Corano per avere sempre l'ultima parola con i suoi pazienti, che talvolta, anche quando soffrivano di forti febbri, volevano a ogni costo inginocchiarsi sulla fredda pietra 5 volte al giorno per le preghiere. Nel libro, però, ella aveva trovato il passaggio che autorizza un malato costretto a letto a prosternarsi simbolicamente abbassando le palpebre. Dovette altresì lottare a lungo prima di ottenere che i degenti non sputassero ovunque e che non creassero disordine nelle sale orientando i letti verso la Mecca. Per un certo periodo era scarseggiata l'acqua per lavare lenzuola e indumenti. I giardinieri la utilizzavano per innaffiare senza parsimonia le aiuole. La nostra amica svizzera ci disse: "Forse, secondo il punto di vista di un afghano, lo spettacolo di un fiore è più utile al paziente di una camicia da notte pulita." Ai convalescenti non era permesso ritornare a casa, poiché i familiari non avrebbero capito per quale ragione essi dovessero mangiare e dormire in luoghi appartati. Per loro le malattie erano un maleficio dei cattivi jinn e bisognava combatterle con amuleti o ingurgitando della terra proveniente dalla tomba del santo protettore e della famiglia. Il fatto più irritante, tuttavia, ci confessò, era che i malati pretendevano sempre di saperne più di lei. Per molto tempo l'infermiera non aveva capito perché gli ospiti del sanatorio bevessero il tè preparato in cucina e non quello del samovar sistemato nella sala. Alla fine aveva deciso di nascondersi in un armadio per osservare le loro mosse. I malati vuotavano il contenuto delle fiale in quel samovar temendo che contenessero alcol, il cui uso è proibito dal Corano. Fu così in grado di tranquillizzarli, assicurando loro che l'acqua non poteva in alcun caso essere contaminata, poiché nel libro era scritto che tutto quanto avesse subito bollitura, fosse anche l'urina, diventava puro. L'irruenta infermiera, capitano del suo piccolo esercito, non aveva paura di nulla, schiaffeggiava i portatori e gli inservienti se non facevano il proprio lavoro. Se le pentole erano sporche, se rubavano legna, se rompevano bicchieri, oppure se si nascondevano per scansare la fatica. Era questo il solo mezzo per venire a capo del suo compito quotidiano. Ero preoccupata per Cristina. Ancora febbricitante, fumava più che mai e, benché delicata di stomaco, non osservava la sua dieta quando cenava fuori. L'affetto che le portavo non sapeva più ispirarmi una condotta da seguire, anzi, mi sembrava di esasperarla a tal punto da chiedermi se non sarebbe stato più profittevole lasciarla in pace. Non voleva ammettere la sua malattia ed era così contratta da non lasciare agire positivamente le sue difese naturali. Non tollerava di essere inattiva, le sembrava un segno di morte. L'idea dell'immobilità la terrificava, il suo animo non conosceva pace, l'inquietudine era sempre in agguato. Tentai di parlarle un'ultima volta. Doveva essere forte, qualsiasi futuro ci aspettasse, facevo appello al suo senso delle proporzioni, suggerendole di tenere presente quanto succedeva nel mondo, di pensare, a titolo di esempio, alla miseria dei polacchi in una Varsavia in fiamme, ma non ottenni che di contrariarla. Non ho intenzione di diventare distaccata come voi o Gabriel, le creazioni più sublimi dell'uomo sono nate dalla sofferenza. Capisco. Le dissi, volete dolervi come Alfred de Musset? I più disperati sono i canti più belli e ne so di immortali che sono puri singhiozzi. Così affondate nelle sabbie mobili, vi fate sedurre da una semiverità quando un poeta crea un capolavoro è perché ha superato la propria sofferenza. Sdegnata, gli occhi duri e saettanti, gridò: lasciatemi dunque soffrire. Accanto al suo reale significato, l'intensità e la sincerità con cui tale esclamazione fu pronunciata furono tali da costringermi a riflettervi più volte. Smisi ogni mia intromissione. Cristina si trasferì al consolato francese, dove era stata invitata in quanto moglie di un collega. Mi dissi che colà avrebbe dormito in un vero letto tra lenzuola fresche, che il buon cibo le avrebbe giovato così come il silenzio e il riposo di cui aveva grande bisogno. Eh sì. Era giunto il momento di separarci. Avevamo vissuto insieme giorno e notte per 6 mesi. La guerra incombeva. In quei giorni il cuoco di Gabriele era partito per Ghazni, nella speranza di trovare qualcuno disponibile a fare il servizio militare al suo posto. Tutte quelle eccellenti ragioni mi aiutavano a nascondermi il fatto che ridiventavo egoista. Ero stanca di Cristina. Avevo incentrato su di lei i miei pensieri per mesi e mesi, non ero più in grado di reggere lo sforzo. Ora era il mio futuro immediato ad assorbirmi. Smistammo le nostre cose, dalla valigia degli scarponi la mia compagna prese un ago ipodermico e me lo consegnò, dicendomi: questo viaggio mi ha liberato dalla droga. Decisi di crederle. Lo studio dove abitavo abbondava di libri interessanti e, contrariata dall'impossibilità di progettare il mio avvenire, mi dedicai interamente alla lettura. Conoscevo già Kabul, l'antica cittadella di Bala Hissar, la città nuova in parte costruita da Manullah nella zona di Dar ul Aman, le ville nel peggior stile periferia di Pagman e anche le colline splendidamente brulle intorno alla città. Niente mi spingeva a uscire. Nicole e Raymond, ormai da tempo arrivati dal Hazarajat con le loro biciclette provate da 1000 fatiche, venivano a trovarmi di tanto in tanto e insieme cercavamo di capire le vere cause della guerra. Teorizzavo che i tedeschi sarebbero diventati più civili nel momento in cui non si fossero più sentiti degli have not, in base al principio dimostrato dalle orde mongole in Cina. La brutalità era per loro una temporanea necessità, vale a dire finché si preparavano alla guerra. Arrivavo persino a supporre che forse, grazie alle loro conquiste, sarebbero riusciti a unire finalmente l'Europa. Cristina contestava le mie parole, ritenendole puri sogni infantili. Nulla di buono poteva venire dai tedeschi, la cui mente era del tutto distorta. Al pari di un avvocato inquisitore, Nicole indagava sulle cause prime. I nazisti non avrebbero respinto le idee di libertà e di amore cristiano, le sole che possano aiutare l'umanità a vivere, se la gente non ne avesse fatto un uso tanto meschino nel corso degli ultimi secoli. Durante tutto il mio soggiorno a Kabul avevo percepito un certo disagio, come se fossi in qualche modo scontenta di me. Soltanto mesi più tardi fui capace di esprimerlo. Avevo fallito con Cristina. Secondo il nostro patto era chiaro il mio impegno a non lasciarla mai sola, qualunque cosa capitasse. L'intensità del desiderio di aiutarla aveva vanificato le mie intenzioni, obbligandomi a uno sforzo tale da stancarmi. Se la bontà fosse stata connaturata in me, avrei sostenuto Cristina in maniera semplice e distaccata, non potendo agire altrimenti, al pari del sole che riscalda o di una mano che pronta si tende a rialzare un bambino caduto. In tal modo non avrei viziato il mio gesto caritatevole pensando io devo riuscire, bisogna assolutamente che io raggiunga il mio scopo. Ogni giorno andavo a trovarla a piedi se un cielo nuvoloso attenuava l'ardore del sole, nonostante i suoi 1800 metri di altitudine, Kabul è spesso troppo calda, o facendomi trasportare dall'allegro trotto di un calesse che si apriva un varco tra i passanti al suono di imperative scampanellate. Cristina era tormentata, oltre che dalla bronchite, da un triplo fruncolo insediatosi sulla nuca, un cratere aperto che le immobilizzava la testa, riducendola in uno stato miserevole. Era pietoso assistere alle medicazioni a cui si doveva sottoporre, eppure non si lamentava mai. Nondimeno, non aveva rinunciato a uscire e frequentava con assiduità alcune persone, tra cui un dottore ebreo tedesco e un rappresentante di commercio svizzero. Talvolta vomitava e continuava a dimagrire. Il dottor Moody mi disse in privato che la mia amica era ormai allo stremo delle forze e che 2 mesi di cure le erano necessari prima di poter ancora viaggiare, altrimenti il suo permanente stato febbrile sarebbe degenerato in tubercolosi. Cristina si era fortunatamente molto legata a Ria, che abitava vicino a lei ed era più umana di quanto io avrei mai potuto essere. Un giorno, mentre era a letto malata, mi parve veramente prostrata, come se, non ribellandosi più, avesse ormai rinunciato alla vita. Ma mi sbagliavo. Era il suo modo di mostrarsi a me per poter sorvolare più facilmente sulla mancanza di franchezza insinuatasi nei nostri rapporti. Io tenevo per me i miei pensieri e lei, infine, parlò e fu la confessione della sua infinita miseria. Negli ultimi tempi mi aveva mentito. Non appena la guerra aveva annullato i nostri piani, era caduta nuovamente preda del proprio demone. Prima la codeina e poi la stessa storia di sempre. La sua seconda natura, con audacia insensata, con inganni selvaggi, aveva preteso e ottenuto tutto ciò che le era necessario. Ma ora era così malata, così allo stremo, che una soluzione radicale si imponeva. Non era più in grado di reggere le dosi, anche se decrescenti, prescrittele dal medico tedesco. Ancora una volta non aveva altra possibilità se non di scegliere il rimedio più crudele, lasciare la città. Gli Hakim, non essendo stati richiamati in Francia e avendo libertà di circolazione, poiché lavoravano per gli afghani, erano partiti per Kunduz. Cristina aveva deciso di raggiungerli e le occorreva il mio aiuto. Con un viso senza espressione, che tuttavia lasciava trasparire una grande sofferenza, mi chiese di perdonarle la sua sfiducia nei miei riguardi. Eppure ero io a sentirmi responsabile. Dopo l'incidente avvenuto a Sofia, mi ero imposta di apparire dura e di non tollerare un'altra ricaduta. Per tale motivo, al momento della prova, Cristina aveva avuto paura di me. Avevo giudicato simile comportamento più utile della tenerezza adottata da quegli amici che mi avevano preceduta. Cercai di lenire la sua disperazione e la sua vergogna, ma non trovavo che vecchie parole ormai usurate. Non si potevano cancellare in pochi mesi anni e anni di una certa abitudine. L'alternarsi di momenti buoni e di momenti bui era normale. L'uomo vecchio doveva essere rieducato fino a che un nuovo modo di vita avesse annullato il passato. Incontrerete ancora medici ottusi come quello di terapia che vi tenteranno credendosi compassionevoli, così come sicuramente ricadrete in malattie o in depressioni che indeboliranno la vostra decisione, ma ora sapete per certo di non essere una tossicomane, poiché avete dimostrato a voi stessa di essere perfettamente in grado di fare a meno di droghe per mesi. Com'è vero che parlo, guarirete. Mi sembrava di parlare a un muro. Senza dubbio il ruolo e il tono di un maestro sono irritanti, a meno che la sua sapienza non sia tanto grande da incentrare l'attenzione sulla verità insegnata e non sulla sua persona. E tuttavia lo sguardo assente di Cristina mi esasperava, a tal punto che prima ancora di rendermi conto di quanto facessi, mi misi a martellarla, anche se soltanto di parole e non di colpi come nel sogno di Istanbul. Quando alfine vi disgusterete del tutto di voi stessa, quando arriverete a essere completamente a terra o ancora più in basso, e quando ammetterete la vostra abiezione, riconoscendo di non avere più risorse, allora, finalmente umile, chiederete aiuto a quella meravigliosa altra parte di voi, di cui già avete sperimentato la forza quando vi sottrasse al vostro inferno. Non dovete soltanto vomitare la droga, come talvolta avete fatto, ma tutto quanto costituisce il vostro falso io. No, non era capace di arrivare a tanto. Non in questo modo e non ancora. Forse era ancora invaghita della propria immagine di angelo decaduto. Percepì il mio sconforto, indovinò il mio pianto nel vederla distruggere la sua radiosa personalità. Baciai la sua fronte madida e la lasciai. Mi recai in seguito dal dottore tedesco e da quello inglese, dall'amico svizzero e poi dai residenti di antica data di Kabul. Il primo medico riconobbe di aver provato tutto senza successo, l'altro mi confermò che Cristina non era in grado né di viaggiare né di campeggiare ora che l'inverno scendeva sulle montagne. Il rappresentante di commercio mi aiutò a ricostruire le strane tappe del suo percorso e i residenti mi dissero che nessuno poteva ottenere un permesso di viaggio per l'interno del paese. Mi sentii depressa. Ma la fortuna ci venne in aiuto. Alla guida di un'automobile arrivò Meunier da Kunduz per cercare il materiale occorrente agli archeologi. Gli spiegai la situazione senza nascondergli fino a che punto fosse folle l'idea di far raggiungere a Cristina il loro campo di Kunduz. Non vedevo tuttavia altra soluzione per lei, assolutamente non interessata agli studi che avremmo potuto intraprendere in India. Era disposto ad assumersi la responsabilità di condurla con sé? Meunier accettò. In quanto a me, affidavo la mia amica nelle mani di qualcun altro. Più che mai simile a uno spettro, Cristina andò a cena in città. Partiva l'indomani mattina per un viaggio di 2 giorni in direzione del Turkestan. Pellicce di pecora, coperte, cappotti di pelle erano pronti, ma i suoi indumenti intimi erano inadeguati. Invano le avevo fatto presente che gli inverni asiatici non erano da paragonare a quelli dell'Engadina. Ero andata con lei in macchina fin sulla soglia della casa dove avrebbe cenato. Scesi dalla Ford e rimasi sulla passerella che attraversava il fossato. L'acqua immobile rifletteva stelle nette e brillanti. Cristina era già in ritardo. Il cuore mi si stringeva sempre più. Cercai qualche parola che suonasse da incoraggiante a rivederci e poi mi allontanai nel silenzio della notte. Mi richiamò. Aveva lasciato cadere la maschera per ritornare se stessa, dimostrando ancora una volta la sua radiosa lealtà. «Ho creduto», disse, «che i mesi di attesa a Kabul fossero per voi meno gravosi che per me. Vi ho sentita dura e distante, so che sbagliavo». Ero troppo presa dai miei problemi. Kini, vorrei chiedervi quale genere di amore sentite per me. Non lo capisco ancora e continua a stupirmi. Non lo so, Cristina. Come potrei rispondervi? Percepisco in voi qualcosa di grande. Il mio sarà forse quel sentimento che la gente esprime dicendo di amare qualcuno in Dio. Mandù. Cristina e io dovevamo incontrarci ancora una volta. Le mie ultime parole di rimprovero nei suoi riguardi erano soprattutto dovute al momento di grave crisi interiore che stavo attraversando. Quando la superai, tutto mi apparve più semplice e da allora gli eventi sembrarono succedersi come spontaneamente. Il mio compito era soltanto quello di capire la via che essi mi indicavano. Fui invitata in India e pensando che dopo la guerra mi sarebbe stato difficile viaggiare, decisi di restarvi, essendo già sul posto. Per procurarmi di che vivere, iniziai a scrivere Gypsy Afloat con la speranza di vendere un numero sufficiente di copie. Durante il Capodanno del 1940 mi trovavo nell'India centrale e Cristina mi raggiunse mentre si recava a Bombay, da dove una nave l'avrebbe riportata in Svizzera. Trascorremmo 2 giorni tra le rovine di Mandù, la città della gioia, un tempo residenza dei re afghani delle dinastie Khilji e Ghur. I palazzi abbandonati, riflessi su laghi silenziosi, l'ombra di grigie moschee costruite sulle rovine di templi indù, gli austeri mausolei e le fortificazioni intorno all'altopiano roccioso di Malwa furono la cornice del nostro incontro. In quell'atmosfera, pregna di antica storia, parlammo della storia di oggi, della guerra. Cristina ricordò la sua malattia che, contratta nel nostro viaggio verso nord, l'aveva ridotta in uno stato di debolezza estrema a Kunduz e le credetti quando mi disse che non potevo immaginare le sofferenze patite. Tuttavia, in qualche modo, esse le avevano immensamente giovato. Il suo sguardo era ritornato luminoso, il suo corpo armonioso e aveva smesso di sentirsi annientata dal passato. Era più eterea che mai, ma in maniera sana, quasi come quei nostri giovani amici Bhil, dalle lunghe gambe nervose, dal torace magro, con le costole sporgenti e dalla zazzera fin sugli occhi, che ci divertivamo a osservare mentre pescavano con archi e frecce sulle rive di quei laghi bordati di canneti. Il passato aveva perso ogni amarezza. Sorridendo, la mia amica accennò a un'osservazione che le avevo fatto nel tentativo di scuoterla dalla sua apatia. Kini, vi ricordate del giorno in cui, mostrandomi una mia fotografia, mi diceste che volendo essere amata da tutti, dovevo stare attenta alla droga, poiché sotto il suo effetto i miei occhi diventavano spenti e opachi? Come avevate ragione. Non vorrei azzardare troppo, ma questa volta credo di essermene liberata sul serio. La sua rinascita mi rallegrò, ma era di data troppo recente, 15 giorni, per non destarmi qualche preoccupazione. Sarebbe stato più ragionevole rimandare di un certo tempo il suo viaggio di ritorno. Ascoltatemi, Cristina. Desiderate partire per la Svizzera? Ma colà non sentirete che parlare di guerra, e poi ancora di guerra, fino all'orrore. Il mattino vi accoglierà con le notizie terribili riportate sui giornali e alla sera vi coricherete oppressa dall'odio di un continente caduto nell'oscurantismo più assoluto. Proverete vergogna di appartenere alla specie umana molto prima di essere confortata dai suoi atti di grandezza. Un clima simile agirà negativamente su di voi. Vi sentirete depressa e incapace di aiutare il vostro prossimo. Io ne sarei meno sconvolta. Sarebbe forse più saggio che rimpatriassi al vostro posto. Con maggiore calma, conclusi, se invece vi fermaste un anno qui con me, diventereste più forte e quindi più utile per ciò che vorrete intraprendere. No, non ho il coraggio di restare. Devo rientrare. E voi vi siete già troppo occupata di me, ma ritornerò. Conosco il nazismo, i miei articoli potranno fare una qualche luce sul nemico che combattiamo. Non posso rimanere qui, mentre la mia gente soffre lontano, io le appartengo. Beh, per contro io non mi sento parte di nessun paese, a meno che esso non sia il mondo. Mi rattrista non potervi tenere con me. Scoprirete presto se la vostra scelta è stata quella più giusta per voi. A tal riguardo sono convinta che siate della razza delle poete e non dei giornalisti. È il vostro animo che dovreste indagare e non la guerra. Kini, ma non pensate che si possa avere bisogno di voi a Ginevra? Oh, sono persuasa di non essere così necessaria. Una persona in più o in meno non fa differenza. Lasciate che accorra chi sente il dovere di prestare il proprio aiuto. Non desidero che il mio comportamento sia d'esempio a nessuno, eccetto che a voi. Per essere sincera, avevo supposto che questa guerra mi avrebbe travolta, che mi sarei precipitata laddove avrei potuto rendermi utile, dimenticando ogni mio progetto. Beh, non è avvenuto così. Nulla di quanto l'Europa abbia intrapreso in questi ultimi tempi risveglia il mio entusiasmo. Sento che vi manca sempre il punto essenziale e poiché ho la fortuna di non essere costretta da nessun dovere, continuerò in ciò che ritengo imperativo per me, in ciò che partendo avevo deciso di portare a termine. Se ritornassi ora non sarei meno disperata di un tempo. Avrei le orecchie continuamente tese verso un passo che potrebbe avvicinarsi. Sarei sempre in attesa di un qualcosa che sopraggiungesse dall'esterno. E non credete che dovremmo rimandare la nostra personale ricerca quando la pace sarà di nuovo ristabilita? Ah, io percepisco con assoluta chiarezza che sia la pace sia la guerra non rappresentano il nostro bisogno più grande. Ricordo ancora il prezzo pagato per entrambe una ventina d'anni fa e quanto poco abbiamo saputo metterle a frutto una volta ottenutele. Si sono perduti i fondamenti della nostra vita. So bene che potrei nutrire rifugiati, vestire orfanelli, curare corpi martoriati, tutte opere utilissime, ma quando il ferito è guarito non capisce il perché della sua vita, a meno che non demandi a una qualche rivoluzione il compito di sistemare tutto. Oscillare tra non vivi che per morire e muori per vivere non mi basta. Come molti altri, ho bisogno di qualcosa in più. Tuttavia, anche se può sembrare strano, quello che cerco mi è ancora sconosciuto. Voglio dunque capire se la saggezza indiana sia in grado di illuminarci. Non pensate di volere molto semplicemente rimanere lontana dalla guerra? Me lo sono chiesto. Se scoprirò che è questo il motivo profondo che mi trattiene, vi raggiungerò immediatamente. A rigor di logica mi sarebbe più facile ritornare con voi, vivere tra la nostra gente, comportarmi conformemente agli altri, sostenuta dal mio ambiente. Per contro, qui, in un paese tanto distante da ciò che mi è congeniale, sarò sola e costretta a contare unicamente su me stessa. Tra quelle rovine di Malwa, arroventate da secoli di sole asiatico, e in quell'atmosfera fiabesca da bella addormentata nel bosco, la guerra sembrava un impossibile incubo. Non di meno continuavo a parlarne. Cercai di spiegarmi meglio. Vedete, Cristina, sono più vecchia di voi e questo implica una sostanziale differenza. Seppur troppo giovane per essere stata colpita di persona dalla prima guerra mondiale, al contrario di Gerbault che vide morire accanto a sé tre dei suoi migliori compagni, credo di aver sofferto indirettamente quanto i miei amici hanno subito e di esserne perciò stata influenzata. Quella guerra mi ha spinta a prendere la via del mare, per sempre disillusa della nostra civiltà. Il conflitto che oggi si è scatenato mi obbliga a ricercare il significato del mondo, il comune denominatore di ognuno di noi, i presupposti indispensabili per ricominciare a vivere. Era giunto il momento di separarci. Eravamo rassicurate dalla sensazione di essere infine legate da un qualcosa di solido e di duraturo. Cristina, non mi avete raccontato come vi siete ristabilita al punto da lasciare Ria e viaggiare fin qui. Ancora una volta avete potuto constatare quale immensa riserva di forze positive operi in voi. Esse sono sempre presenti, sono la vostra stessa essenza, ricordatevene, sempre. Un sorriso radioso si disegnò sul volto di Cristina. Verrò di nuovo a voi e sarete fiera di me. Sul cruscotto era inserita la piccola chiave piatta, perduta e poi ritrovata nel negozio di Trieste. La girò e ripartì verso Silvaplana. Più tardi, troppo tardi per essermi ancora utile, capii il significato profondo di quel grido: «Lasciatemi dunque soffrire!» Era il simbolo del suo personale cammino, scelto, forse inconsciamente, allo scopo di liberarsi. Poteva apparire morboso il suo continuo occuparsi di sé. In realtà, cercando la sofferenza, ella realizzava grandi cose. Limitava senza sosta quell'ego che, avido di godimenti, impedisce a ciascuno di noi il pieno manifestarsi della propria individualità. Se desiderare tale stato è contrario alle normali esigenze del nostro io, so finalmente che per Cristina Era possibile superare il dolore in virtù del dolore stesso. Avere pena di lei era come un'abitudine per me e non era necessario. La mia amica ha vissuto ciò che vi è di più profondo, di più prezioso, l'imperturbabile verità. La trascendenza, al fine raggiunta, la illuminò, anche se non mi è dato sapere se la sua vita quotidiana ebbe il tempo di esserne trasformata. Nel 1942 Cristina dovette passare molti mesi in Congo, nell'impossibilità di unirsi alle forze francesi libere presso le quali era stata inviata come giornalista. Colà, presa da un'ispirazione di tale ricchezza da meravigliarsi, ella stessa iniziò un libro, Das Wunder des Baumes, Il miracolo dell'albero, dedicandogli ogni sua energia. Esponeva in quelle pagine la propria nuova concezione di vita, visione acquisita a duro prezzo nel corso dell'ultima terribile crisi avuta a New York. Quando era troppo stanca per lavorare, mi scriveva talvolta lunghe lettere, lasciando scorrere liberamente le parole per comunicarmi le scoperte che faceva nelle valli sconosciute del suo cuore. Non è più su questa terra per darmi il suo assenso, ma credo che mi avrebbe concesso di riportare alcuni passi di quelle lettere senza le quali molto del significato della sua vita sarebbe andato perduto. Sono parole sorprendenti quando si sa quanto tutta la sua ultima opera sia segnata dal tormento della perduta innocenza infantile e dall'ossessione di doverne scontare la colpa. Questi suoi pensieri non hanno bisogno di commento alcuno. Ora lo so, tabacco o droga sono inutili. Senza di loro sono libera di cercare un'altra concentrazione, più vicina a ciò di cui ho bisogno per scrivere, più affine all'impegno e alla libertà interiore che avete cercato di insegnarmi. Perché la droga era sempre abbandono, fuga da quell'eccesso di sensibilità, desiderio fatale di uccidere la vita, perché essa è il tentativo di cancellare sofferenza e gioia, le sole tensioni da cui può nascere l'attività umana. In un'altra sua lettera lessi: conosco il tormento che vi ho inflitto, con le mie malattie, tristezze, tragedie, sciupando al contempo la mia vita fino quasi ad annientarla, ed è strano che abbia dovuto passare attraverso l'esperienza di un anno a New York, trascorso nella reclusione e nella ribellione psicologica, credendomi vittima di un amore senza via di scampo, sentendo poi il bisogno assoluto di partire per la guerra. Sacrificio che consideravo giusto e nobile in quanto partecipazione alla realtà al di fuori di noi, per poter finalmente capire che le nostre relazioni con il mondo devono essere stabilite in un campo infinitamente più vero, invulnerabile in quello dell'anima, indifferente alla buona o all'avversa fortuna, essa resta pura, così come non può essere toccata la parte migliore della nostra volontà e della nostra fede. La lotta sotto forma di amore o di odio, il desiderio selvaggio di afferrare e di comprendere il mondo al di fuori di sé e di farsi accettare da esso a ogni costo, sono entrambi falsi, poiché la base ne è viziata, snaturata. Il soggiorno in Africa mi ha insegnato più chiaramente di ogni altra mia esperienza l'irrilevanza del mondo esterno, la sua falsa realtà. Per i miei periodi bui precedenti, segnati da malattie e sconforti, vi era sempre una mia colpa grave all'origine. Ne avevo quindi dedotto che se non avessi più commesso tali errori sarei stata salva e ogni mio progetto avrebbe avuto buon esito. Mi sbagliavo. Quando sono arrivata in questo paese, piena di buona volontà, ho sbattuto contro muri più terribili di quelli di una prigione. Ho incontrato avversità peggiori della mancanza di denaro. Ogni mia parola era vana e la risposta era sempre la stessa. Perché dovremmo credervi? In effetti, potrei anche non chiamarmi Cristina, ma nonostante tutto rimarrebbero integre la mia identità e la mia essenza umana. Rivolgersi agli uomini è perdente. Siamo fratelli, certo, ma soltanto per la nostra origine comune, perché figli di Dio. Non mi restava che cercare il mezzo per non essere ferita dalla casualità del mondo esterno che ci domina tutti, che io sia uccisa dagli uomini, dalla fame, come da un sasso. L'eterno che è in me non può essere toccato. Siamo pur nati liberi al di là di ogni legge di questa terra. Durante la primavera del 1943, Inquieta per il prolungato silenzio di Cristina, le inviai il seguente telegramma: Ricordatevi, la verità trionfa. Ricevetti dalla Svizzera questa risposta: Cristina, morta in pace, 15 novembre 1942, in seguito a un incidente in bicicletta. Epilogo. Cristina, sono privata della profondità che viveva nel vostro sguardo, del vostro insaziabile bisogno, della vostra inestinguibile sete di assoluto. Quando la notizia della vostra morte mi ha colpito come un inganno, il mio pensiero è tornato al cammino percorso insieme e lentamente, con dolore, il numero di queste pagine è andato crescendo. Anche là dove il vostro nome non appare, siete comunque presente. Ogni pagina riflette tormenti e rimorsi che mi hanno legata a voi. Potrete mai perdonare le rozzezze e le incomprensioni della mia scrittura nell'evocare i vostri gesti? Conoscete il mio cuore, Cristina, la sua ammirazione, il suo rispetto per la vostra rettitudine. E del pari, sapete che non è possibile descrivervi, che queste pagine mi aiutino a ricordare che soltanto esigendo tutto è possibile sperare di raggiungere la meta, altrimenti per noi la vita non vale la pena di essere vissuta. Trivandrum, 1945, India, Chandolin, 1948, Svizzera. Fine.